quando mi vedo. Vedo del giorno il colore dei fiori quando mi sento. Sento del giorno il calore del sole, mi vedo l'amore. Vedo l'amore. Quando mi vedo, vedo sorridere e tribolare. Quando mi vedo, una carezza valuno umana e mi vedo l'amore. Vedo l'amore. Quando son tristo e qualche luna e vien tirar su, quando mi rido e vedo tutti che ride con me, mi vedo l'amore, mi vedo l'amore.